Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, non un grande spettacolo quello di ieri sera al Camp Nou, la maggior parte dei commentatori l'ha spiegato con il catenaccio gigante del Chelsea, che a tratti ricordava catenacci doc italiani degli anni 60-70, e questo è un dato oggettivo, non si discute, ma insomma, io accenterei invece la serata storta del Barcellona, in particolare di Messi, perché il Barça è riuscito a giocare in velocità tanto solo con Iniesta, ma poi insomma queste sue combinazioni, queste sue trecce magiche a grande velocità non sono praticamente mai riuscite. Le rare volte che è arrivata una palla buona agli attaccanti, questi l'hanno sbagliata, o l'ha salvata Čeko o l'ha sbagliata Bojan, il ragazzino è entrato nel finale giusto al 90esimo. Ora lo 0-0 lascia impregiudicato, direi, impregiudicata la qualificazione, perché basta un gol fuori casa a Barcellona per complicare notevolmente la vita al Chelsea, e qualche spazio in più anche per decenza credo che il Chelsea lo lascerà in casa sua a Londra. Però il Barça dovrà fare a meno di Puyol squalificato, e comunque il non aver segnato una squadra che ha superato credo i 140 gol quest'anno sommando campionati e coppe, e che è quasi a 100 gol in campionato, indubbiamente un po' di sensazione la fa. Non solo, ma questo dato finirà per riverberarsi magari negativamente anche sul morale del Barça, che sabato sera alle 8 gioca a Madrid, al Bernabéu, la partita chiave della Liga Spagnola. Come capita a metà settimana, mi ha raggiunto dal Sole 24 Ore, quindi da piano di sopra, Marco Bellinazzo. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci sono un po' di argomenti in scaletta, e mi pare che il primo possa essere, perché si aggancia molto bene direi a questa ennesima leadership britannica con tre squadre su quattro in semifinale di Coppa, al fatto che né in Inghilterra e nemmeno in Spagna, anche se non riguarda direttamente il Barça, mi pare che sia tutto oro quello che luccica da un punto di vista economico e finanziario per queste squadre. Assolutamente, il pericolo, l'allarme bancarotta è molto alto sia in Inghilterra che in Spagna. In Inghilterra addirittura è stato il Parlamento inglese la scorsa settimana a lanciare appunto questo allarme, parlando appunto di doping finanziario vero e proprio. Sì, che non è un modo di consolarci per il fatto che noi, lo direi subito a beneficio degli ascoltatori, come premessa, non ci stiamo consolando del fatto che il calcio italiano per il secondo anno consecutivo non figuri nella fase finale, e l'Italia che conta, però è è un argomento che riprendiamo sempre volentieri aggiornandolo, a partire dalla denuncia dello scorso anno, da quella frase direi ormai abbastanza storica di Platini, che è presidente dell'UEFA, all'indomani di quella magnifica finale tra Manchester e Chelsea, disse: sono un po' stufo di dover consegnare una coppa a squadre che comunque sono finanziariamente vicine al tracollo. Noi siamo spesso ipercritici verso noi stessi come italiani, un po' un difetto nazionale, e non abbiamo mai lesinato critiche alla gestione del calcio italiano, però direi che se l'intero sistema della Serie A produce debiti per 150 milioni all'anno, sono i dati degli ultimi bilanci disponibili che abbiamo raccontato nei mesi scorsi, sì, e il calcio inglese viaggia verso i 4 miliardi di euro di debito, e la Liga Spagnola è lì sui 3 miliardi di euro, con molte squadre che rischiano la bancarotta, direi che non è autoconsolatorio parlare di questi problemi. No, è un dato. E semmai il tentativo, come appunto fatto il Parlamento inglese, di suggerire o di supportare quelle politiche della FIFA o della UEFA, politiche diciamo di promozione di una sana gestione economica dei club, che dovrebbero puntare per esempio sugli stadi privati, ma sulla valorizzazione dei vivai. Per esempio il Parlamento inglese, e l'Inghilterra non è mai generosa con le istituzioni europee in genere, ha come dire, chiesto al governo inglese di supportare la UEFA e la FIFA nella battaglia diciamo per valorizzare i vivai, e in quella famosa battaglia del 6-5 di cui Blatter è un fautore da alcuni anni ormai. Questo è un dato di fatto. Quindi le cifre che ci hai dato sono abbastanza impressionanti. Arriva dalla Spagna, in questo caso sempre, una notizia inquietante che insomma, viene richiamata, tu hai usato l'espressione dopo in finanziario, ormai è un modo di illustrare, è un modo codificato quasi, quindi in ogni caso accettato di illustrare questo genere di situazioni. Purtroppo il doping non è soltanto finanziario, ce n'è anche un altro. La notizia di ieri riguarda Rebellin, riguarda l'ennesimo ordine d'arrivo di un'Olimpiade o di un giro o di un tour in cui l'ordine d'arrivo che conta non è quello che vedi a fine tappa e non è il podio o le medaglie, ma arriva poi con una certa scadenza. Quindi questo ha toccato ancora una volta e duramente, pesantemente lo sport italiano. In Spagna mi pare che la settimana scorsa il governo abbia fatto una mossa che ha suscitato più di una perplessità, trattandosi in particolare proprio della Spagna. Il governo, con un decreto legge, un provvedimento d'urgenza, quindi, è intervenuto a gamba tesa sulle norme della WADA, quelle di cui abbiamo spesso parlato qui, quelle sulla reperibilità che tanto hanno fatto discutere, ma il governo spagnolo ha appunto pensato di trovare una soluzione molto drastica, sostanzialmente vanificando queste regole. Come si ricorderà, e come molti ascoltatori ricorderanno, uno dei principi cardine, quella della reperibilità, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. In Spagna, in base a questo provvedimento, invece non saranno più consentiti i controlli nelle ore notturne, quindi dalle 23 alle 8. In più sarà consentito agli atleti, anche quelli di prima fascia, quelli più importanti di tutte le discipline, di fornire informazioni soltanto su quello che è il proprio domicilio abituale, sul calendario delle gare e sui luoghi in cui svolgono gli allenamenti. Mentre qualora si spostino dal domicilio abituale, dovranno comunicarlo solo se questo spostamento supera i 3 giorni. Questo significa appunto vanificare tutto l'impianto, sì, delle norme WADA. Nell'ottica dei diritti civili, a cominciare da quello della privacy, insomma, direi che può essere visto come una conquista rispetto a una norma un po' schiavista, se vogliamo, della WADA, no? Orientativa. Siamo stati i primi a criticare quelle norme e a chiedere che in qualche modo si trovasse un equilibrio tra... Il fatto però che questo provvedimento arrivi e tra l'altro in maniera così forte, cioè con un decreto legge in tempi abbastanza rapidi, proprio dalla Spagna, sia per le chiacchiere che ha subito la Spagna che per altre considerazioni, o per essere un po' erto eccetera, mi sembra che una luce non proprio felice la butti su questa cosa. La Spagna è il paese dell'Operazione Puerto, che tanto ha fatto discutere e soprattutto farà discutere, perché si stanno moltiplicando le inchieste non solo della procura ma anche giornalistica, che mettono a fuoco come in qualche modo le indagini si siano fermate a un certo punto, siano in qualche modo state insabbiate, non si sia arrivato a scoprire tutti i responsabili e tutti gli atleti coinvolti. In ogni caso, questo provvedimento lascia un alone di grave dubbio sugli stessi atleti spagnoli. Voglio dire, sarà sempre possibile mettere in dubbio i risultati acquisiti da questi atleti, e ricordiamo che la Spagna negli ultimi 2 anni è stata la nazione che è cresciuta di più. Hanno vinto non solo gli europei di calcio, ma i mondiali di basket, gli europei di pallavolo con una squadra che non era mai arrivata in semifinale. Sono atleti in crescita in tutte le discipline. Il fatto che sia intervenuto invece questo provvedimento a limitare proprio lì, e dando una sorta di carta bianca, creando una sorta di paradiso non fiscale ma diciamo paradiso del doping, crea, ripeto, un alone di negativo su tutto il movimento sportivo spagnolo, che non credo in fondo se lo meriti. No, credo che non gli faccia molto molto molto bene, anche perché tutto questo si inquadra un pochino nello spirito di quel paese, no? In cui è difficile, ma proprio parlo anche di costume prima ancora che di legge, cioè è difficile in questi anni capire, qui usciamo un attimo dal mondo sportivo, quanto il, come dire, questa specie di paradiso libertario della Spagna sia, da tutti i punti di vista, proprio del costume sto dicendo, quanto sia una conquista e quanto invece magari contenga ogni tanto gli eccessi, no? Mi pare che questo provvedimento entri un pochino in questo solco rispetto a questo regolamento mondiale forse un po', io ho detto schiavista, è un'espressione forte, ma insomma il concetto c'era, no? Forse un fallo di reazione, no? Questo qua spagnolo un po' eccessivo a sua volta, soprattutto perché era una sorta di cartellino rosso alle regole VADA che erano state invocate da molti altri di spagnoli, a partire da Nadal, che è sicuramente negli ultimi anni la massima espressione del tennis mondiale, un atleta formidabile, ma che fa della forza fisica, certo, un elemento di superiorità sugli avversari. È un elemento, quello della forza fisica, che a differenza, diciamo, degli aspetti tecnici può essere maggiormente influenzato dall'utilizzo diciamo di aiuti di tipo chimico, biologico. Non diciamo, stiamo dicendo ovviamente che Nadal si è dopato, ma il dubbio da parte degli avversari è stato sollevato, il fatto che proprio Nadal abbia invocato un maggior rispetto della privacy, e quindi addirittura lui disse che nemmeno la mamma sapeva dove si spostava, per cui non vedeva in che modo potesse e dovesse comunicare invece alla VADA i suoi spostamenti e i suoi trasferimenti. Ripetiamo, c'è un'esigenza di diritto della privacy, di diritto della vita familiare, che per gli atleti è importante, ma è anche vero che gli atleti di vertice, che per un breve lasso della loro vita guadagnano tanto in funzione delle proprie prestazioni sportive, e sono degli esempi per i giovani, ci sia l'obbligo in qualche modo di subire alcune limitazioni dal punto di vista della riservatezza. È vero. Ma perché sono degli esempi? Perché hanno una responsabilità pubblica. Chiaramente l'obbligo di indicare ogni giorno, ad ogni ora, per tutto l'anno, dove si trovano gli atleti, dove viaggiano, in che modo si spostano, può essere considerato non solo lesivo della privacy, ma anche pericoloso per gli atleti più in vista, certo, qualora il sistema che gestisce queste informazioni potesse essere in qualche modo, diciamo, sì, potesse, violato, potesse, certo, potesse diventare di dominio pubblico. D'altra parte, io non so se e quando si riuscirà a vincere questa battaglia, perché è anche vero che, se prendiamo il caso Rebellin, nel ciclismo la reperibilità totale funziona e funziona in maniera indiscriminata da molto tempo, però evidentemente i casi continuano a susseguirsi. L'avranno controllato chissà quante volte di giorno e quante volte di notte, non lo so, ma prima o poi magari lo si saprà. Eppure a 8 mesi data salta fuori che Rebellin era dopato alle Olimpiadi e deve restituire una medaglia d'argento. Sul caso Rebellin, che reputo molto grave per lo sport italiano, proprio perché il CONI è all'avanguardia nella lotta al doping, e il CONI prima delle Olimpiadi è stato una delle, diciamo, strutture di gestione dello sport nazionale che ha come dire, denunciato i propri atleti. Ha fatto una cernita preventiva, rinunciando a delle medaglie d'oro, certo, quasi annunciate, come quelle della Bastianelli proprio nel ciclismo. Certo. Quindi il fatto che sia stato scoperto un atleta italiano in uno sport, se vogliamo, a rischio, perché il ciclismo in modo o nell'altro è uno di quegli sport in cui le pratiche del doping sono più diffuse in qualche modo da sempre, è molto grave, è molto grave. Allo stesso tempo però ci vedrei degli elementi positivi proprio per questa battaglia che il CIO sta conducendo in maniera seria, se si scopre che certe sostanze in quel momento non rintracciabili, perché non erano a disposizione gli strumenti tecnici per rintracciarle, ora possono essere scoperte anche a distanza di tempo, credo sia un fatto positivo e anche disincentivante. Molto spesso gli atleti giocavano a questa roulette russa sperando di utilizzare appunto sostanze nuove di ultima generazione, come appunto la famosa cera di ultima generazione, l'epo di terza generazione, sperando appunto che in quel momento i poliziotti, tra virgolette, non avessero gli strumenti per individuare queste sostanze. Il CIO ha fatto presente che conserverà i campioni biologici, quindi sangue e urine prelevate agli atleti, per 8 anni, e per i prossimi 8 anni sottoporrà questi campioni a tutte le analisi che saranno consentite dall'evoluzione tecnologica e scientifica. Cosa significa? Che Kibara, certo, dovrà restare nel dubbio di essere scoperto almeno per 2 quadrienni. Sì, è di una tristezza infinita comunque dover pensare che da ora in avanti questa, cioè, non solo lo sport ai livelli supremi, parliamo di Olimpiadi, è diventata anche lì una lotta a guardie e ladri, ma che addirittura gli ordini d'arrivo e le medaglie d'oro a questo punto saranno definitivi solo a 8 anni data, ripeto, di una tristezza cosmica addirittura. Scrive Renato da Vittorio Veneto: continuo a non capire, ci sono questi debiti, e sta riferendosi al calcio inglese in particolare, eppure leggo appena ieri dal Sun che lo United ha offerto a Rooney un mega rinnovo. Dove sta la verità? La verità nel fatto che questi debiti ci sono e che però c'è una proprietà alle spalle, questo è il caso del Manchester, ma si potrebbe citare tante altre società, c'è una proprietà che è disposta a pagare ogni anno e a colmare le lacune finanziarie dei club. E finché è così, è anche giusto che sia così, siamo nel libero mercato. Il problema è quando appunto il doping finanziario finisce per incidere e falsare le competizioni, quando c'è una squadra ha una ricchezza sterminata alle spalle, può permettersi di comprare i giocatori più forti, di strappare alle altre squadre i giovani più promettenti, finendo in questo modo per avvantaggiarsi. Il Manchester, fino a che non ci saranno delle regole che vietano di indebitarsi oltre una certa soglia per partecipare alle competizioni internazionali, per esempio come Platini ha detto di voler in qualche modo fare, provare a fare, certo. è libero di comportarsi in questo modo, resta il dubbio, insomma, che sia una cosa eticamente giusta dal punto di vista prettamente sportivo. Ancora due capitoli in questo filone tra l'economico, il normativo e giuridico e altro ancora. La prima riguarda il 5 per 1000. A che punto sta la missione delle società dilettantistiche? Avevamo accennato alle polemiche che la norma in qualche modo lasciava intravedere, però c'è una buona notizia, nel senso che ieri sono stati pubblicati gli elenchi provvisori, saranno oltre 5.000 le associazioni sportive dilettantistiche ammesse a godere di questo beneficio. C'è però anche una cattiva notizia, perché dalla Lega Nazionale Dilettanti fanno sapere che erano oltre 12.000 ad avere i requisiti e non hanno fatto in tempo ad iscriversi, proprio perché le norme sono cambiate all'ultimo momento, quindi è stato già annunciato ricorso. Vedremo cosa succederà, terremo informati tutti gli interessati. Gli ascoltatori, come fai con i lettori del Sole. E allora l'ultimo dei capitoli, che riguarda quello, insomma, l'aggiornamento della situazione su violenza stadi, eccetera. La violenza sta tornando, è un segnale che ormai si coglie da alcune settimane, poi le forme variano, una volta è uno stadio praticamente all'intero che intona cori immondi, razzisti nei confronti di un giocatore, un'altra volta è quello che succede fuori dallo stadio in Fiorentina-Roma, prima e dopo. Il CASM continua a barcamenarsi tra provvedimenti che convincono e altri che lasciano perplessi. Ho letto ieri, o forse stamani, non ricordo, che è stata vietata la trasferta dei tifosi della Roma a Cagliari, se non sbaglio. Mi domando perché non fosse stata vietata quella a Firenze, visti robusti precedenti in materia. Allora, lo stato dell'arte a che punto è? I feriti sono in calo, gli incidenti sono in calo, sono risultati positivi che apprezziamo. Sarebbe bello se questi risultati si raggiungessero senza queste continue limitazioni e senza i continui divieti. C'è un principio di prudenza che dall'osservatorio, dal CANS, vengono accolti e utilizzati, per cui spesso e volentieri ci troviamo di fronte a provvedimenti, a divieti di trasferte poco comprensibili, e ci sono improvvise aperture di credito spesso e volentieri, ahimè, deluse. Detto questo, ci sono due novità che riguardano quel calcio minore, se vogliamo, o comunque legato alle categorie inferiori, spesso funestati da episodi di violenza che non hanno la ribalta della cronaca nazionale, ma che sono... Devono esagerare per arrivarci, ogni tanto ci arrivano anche loro, Juve Stabia, quest'anno ne abbiamo parlato, per dirne una, probabilmente quest'anno sul podio da questo punto di vista. Ebbene, dall'anno prossimo anche negli stadi delle leghe professionistiche minori con una capienza inferiore a 7.500 euro, euro era, spettatori. Era un lapsus perché pensavo ai costi e a chi dovrà sopportarli. Perché arrivano arrivano i tornelli, arrivano gli steward, arrivano i sistemi di videosorveglianza, insomma arrivano i biglietti nominativi, tutto quel pacchetto di norme che vengono chiamate Amato Pisano, proprio perché approvate in due fasi precedenti e sempre dopo momenti di gravi incidenti, e che dovranno mettere in sicurezza gli stadi. Ma quindi anche minori. Tutti? Cioè tutti? Vuol dire per ogni categoria ormai? Per ogni categoria, evidentemente, finora c'era un limite appunto dei 7.500 spettatori, sì. per gli stadi più grandi, ora anche quelli inferiori dalla prossima stagione dovranno adeguarsi. Tutti, quindi la XC1, la XC2, che adesso si chiamano in questo modo, che sinceramente non ho ancora molto imparato, Lega Pro. Di questo genere, sì, Lega Pro 1, Lega Pro 2, finché ce n'è, Lega Pro Nobis. Dovranno essere messi in sicurezza anche questi stadi, e per di più queste stesse società dovranno approntare il sistema, il meccanismo della tessera del tifoso, di cui spesso abbiamo parlato, che ha dato ottima prova di sé. Ovviamente sono ironico in Napoli-Milan. C'è questa intenzione di farla applicare anche alle società minori. Ora, già i costi per adottare questi nuovi meccanismi, questi nuovi strumenti a livello di Serie A e Serie B sono molti, tant'è vero che solo Milan e Inter hanno adottato la tessera del tifoso. Io non so quanto sia più una carta di credito o serva a limitare gli episodi di violenza, perché abbiamo visto che a livello preventivo non serve a individuare i soggetti più pericolosi, visto che viene poi rilasciata a chiunque, come ha spiegato anche Galliani, serve poi per individuare chi ha commesso determinate violenze e impedirgli di entrare allo stadio, ma per quello c'era già il DASP, quindi non si vede perché ci si debba sobbarcare l'onere di avere un ulteriore card nel portafoglio. In ogni caso, ci sono queste importanti novità. Io non so se il mondo del calcio minore in Italia è pronto a mettersi in regola, anche perché, come i costi, ripeto, economici ci sono, e i comuni che dovrebbero supportare la messa in sicurezza degli stadi hanno ben altri problemi in questo momento. A loro volta non mi pare che stiano nuotando nell'oro. Mi sembra una delle classiche misure destinate poi a essere prorogate a anni successivi a miglior sorte. Chiuderei magari lanciando un appuntamento sulla prossima settimana, sì, e tornando proprio alle regole sul doping di cui parlavamo prima, perché è stato siglato l'accordo tra la FIFA e la WADA proprio per contemperare l'esigenza della privacy alle più strette norme del regolamento antidoping mondiale. Dovrebbero essere create delle griglie di atleti in base al rischio, e quindi per esempio solo quelli infortunati o che hanno subito già squalifiche dovrebbero rendersi reperibili sempre, 365 giorni all'anno e 24 ore su 24. Per gli altri dovrebbe scattare delle forme di attenuazione di questa reperibilità, però ne parliamo magari la settimana prossima in maniera più approfondita. Abbiamo già fissato un appuntamento, grazie allora a Marco Bellinazzo. Ci restano poco più di due minuti prima dell'intervallo lungo, quello che riguarda gli aggiornamenti dei mercati. C'è uno ascoltatore già collegato, Luca, chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senta, volevo commentare la partita di ieri sera. Sì. I due uomini più significativi, Lampard da una parte e Messi dall'altra, sono stati quelli che praticamente non si sono visti. Sì. Essendo così dei mormorati pallini di Moratti, volevo chiedere un suo parere con la comparazione che si fa sempre con Ibrahimovic, che è determinante con la regina, ma al di fuori di partite un po' impegnative non si vede. Secondo lei è stato così una partita sbagliata o potrebbe essere per loro un problema simile? Non lo la so. Seconda cosa così, visto che lei ha ogni tanto come ospite Mazzone, la prossima volta che lo sente, se può chiedergli cosa ne pensa di Guardiola come allenatore, visto che lui l'ha avuto come calciatore nel Brescia, se non sbaglio. Sì, grazie. Questa è futura memoria e vedrò di ricordarmela. Ibrahimovic ha una lunga e costante desuetudine all'essere protagonista in partite di alto livello in campo europeo. Non mi pare la stessa cosa per Lampard e non mi pare la stessa cosa tantomeno per Messi. Ah no, hanno sbagliato una partita ieri, soprattutto Messi. Però insomma, da lì a farne un, soprattutto è questo riferimento all'Inter che mi lascia un po' perplesso per due ragioni. La prima è che Lampard era un pallino di Mourinho e non di Moratti, perlomeno mi pare di ricordare. La seconda è che Messi può essere il pallino di chiunque, ma tanto Messi da Barcellona. Credo a Barcellona lasciano andare i fantasisti al capolinea, come lo hanno dimostrato lo scorso anno, mi pare, e ne sa qualcosa il Milan, ma i ventunenni di quel talento non credo proprio che siano disposti a mollarli, quindi credo che queste voci che poi ogni tanto qualcuno butta fuori, ogni tanto dovrebbero davvero lasciare il tempo che trovano. Velocemente, Alessandro da Brescia, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare un intervento esclusivamente in merito alla situazione del Manchester. Allora, sento un po' parlare della situazione debitoria, però onestamente mi sembra di capire da letture fatte, da frasi estorte, che il debito è esclusivamente dovuto all'acquisizione da parte di Malcolm Glazer, che banalmente l'ha fatta con un mutuo. Il margine operativo lordo del club è positivo, alias vuol dire che la sua gestione annuale è in positivo. Queste sono le informazioni che io ho. Poi adesso confrontiamo. Il debito c'è, ma bisogna vederne anche l'origine. Relativamente all'Arsenal, mi sembra di capire invece che il debito ha un'origine esclusiva, l'indebitamento per la costruzione dello stadio, che stanno ripagando, e questo ha evitato fino ad ora all'Arsenal di fare, forse a Xavi in parte, investimenti pesanti sul mercato in fase di acquisizione. Tanto è vero che mi sembra che l'Arsenal è più probabile che perda pezzi piuttosto che li acquisti. Se li acquista sono giovani o ragazzi da valorizzare. Oh, prima di cambiare argomento e di ascoltare per esempio l'intervista rilasciata ieri, un frammento, l'intervista rilasciata ieri a John Elkann a proposito anche di Juventus, prima di cambiare argomento, a domanda risponde. Sicché Alessandro da Brescia ha parlato dei passivi e il distinguo sul Manchester e sull'Arsenal e si è fermato per un minutino, non di più, il nostro Marco Bellinazzo. C'è del vero in quello che Alessandro ci faceva notare, proprio perché la gestione dei club inglesi può considerarsi sostanzialmente positiva al di là degli andamenti annuali, ed è il modello verso il quale il calcio italiano sta andando, proprio perché si basa sulla proprietà degli stati, sulla gestione 24 ore su 24 di questi stati, che significa merchandising e sviluppo di tutta una serie di attività commerciali. C'è una maggiore attenzione alle sponsorizzazioni, il mercato televisivo più ampio, per cui diciamo che anno per anno queste società riescono a produrre utili, a non essere in perdita. Il problema è che sono state la maggior parte, Manchester, ma direi anche Liverpool e Chelsea, acquistate con sistemi diciamo a debito, per cui sono state acquistate con la garanzia della stessa società. È come se io andassi a comprare, io Marco Bellinazzo, il Liverpool, chiedendo alle banche di prestarmi tutti i soldi. È chiaro che dovrò comunque pagarlo per il resto della mia vita quel mutuo, e per quanto utili possa produrre ci saranno sempre interessi da pagare. Detto questo, il modello dell'Arsenal, e in questo senso dovremmo tutti tifare Arsenal per, se vogliamo, una sana gestione del calcio, è quello migliore, che punta appunto alla valorizzazione del vivaio basato su uno stadio di proprietà, su un'attenzione alle uscite e ai ricavi annuali. Altrettanta attenzione non c'è nei bilanci delle altre società inglesi, né in quelle spagnole, in parte anche quelle delle società italiane, ed è quello che Platini sta criticando da qualche tempo a questa parte. Marco, grazie. Nel frattempo c'è un aggiornamento a proposito di doping. I controlli antidoping del CIO ha trovato un'altra medaglia d'oro, in questo caso non d'argento come Rebellin, positivo il marocchino Ramsi, oro nei 1500 di atletica, insomma una delle gare più belle e prestigiose delle Olimpiadi, beccato anche lui postumo, e quindi altra medaglia d'oro evocata. Alcuni ascoltatori scrivono sms o mail per domandare che fine fanno i premi dei dopati. I premi di chi viene scoperto dopato vengono restituiti esattamente come o vengono confiscati, insomma, a seconda, usate il verbo che preferite, ma esattamente come le medaglie. Grazie Marco Bellinazzo. Ascoltiamo allora l'intervista a John Elkann. Ma io credo che i bilanci si fanno sempre a fine stagione. La Juventus sta portando avanti un calcio sostenibile, quello di riuscire ad ottenere dei risultati sportivi che diano soddisfazione a tutti noi tifosi, e allo stesso tempo farlo compatibilmente con i vincoli economici, che è l'unico modo di garantire nel tempo dei successi. Come tutti i tifosi c'è oggettivamente una delusione, e quello che è il mio augurio è che piuttosto che continuamente si parli di cosa si potrebbe, non potrebbe fare, si vinca. I giocatori, mi auguro che loro e il loro allenatore fanno vedere che sono capaci di vincere e non solo di parlare. C'era un problemino forse di consecutio temporum alla fine, ma in compenso l'espressione calcio sostenibile è un'espressione di molto felice, molto, e chissà che, visti i discorsi che si facevano prima con Marco Bellinazzi, questi esempi tutt'altro che virtuosi che arrivano anche da oltre frontiera e dai movimenti calcistici oggi di gran lunga più prestigiosi, chissà che questo calcio sostenibile, questa bella espressione usata da John Elkann, non diventi un riferimento assoluto per fare calcio, per gestire una società calcistica. Ci sono i primi interventi degli ascoltatori. Elio ha chiamato da Savona. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io volevo solo dirle questo: ringraziarla per il libro che ha scritto su Rocco. Vabbè, ma... per me è stata una cosa incredibile leggere quelle cose, perché avevo già intuito, essendo io tifoso milanista da moltissimi anni, sì, e negli anni 60 andavo a vedere il Milan perché lavoravo a Milano, e avevo intuito la persona di Rocco, insomma mi ero fatto una certa idea, però lei me l'ha così ben chiarita che suggerisco a tutti i radioascoltatori. Elio, grazie. Elio, mi scusi se cosa, ma non vorrei che diventasse una cosa spiacevole non per lei né per me, ovviamente, ma per chi ascolta. La ringrazio molto di quello che ha detto. Rocco è una persona da riscoprire, è un personaggio da riscoprire, e averlo riscoperto attraverso le testimonianze dirette di chi ci ha convissuto, no? Da un punto di vista sportivo, era una chiave possibile. Poi ce ne sarebbero altri. Il Petisso Pesaola, faccio per dire, allenatore del Napoli, no, prima grande giocatore del Napoli, poi allenatore, poi uno scudetto a Firenze, se non ricordo male, nel 69, e poi tante altre avventure ancora, Bologna, una piazza che lui ha molto amato. Ecco, il Petisso Pesaola è un altro personaggio del passato che secondo me sarebbe divertente e interessante riscoprire, per tuttora in vita, sia ben chiaro, anche se in età avanzata, per portarci nel futuro qualche esperienza legata a questi personaggi in un tempo, come è stato per esempio Paron Rocco. Torniamo all'attualità. Alberto, Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo tornare un attimo di doping di Davide Rebellin, perché avevo bisogno di capire meglio a questo punto a quale test antidoping risponde la realtà delle cose, perché delle due l'una: o era sbagliato il primo o è sbagliato il secondo. Ecco, io mi domando solo questo. No, mi pare che abbia spiegato bene prima, anche se non sono io certamente a poter rispondere a questa domanda. Mi pare che prima Bellinazzo, in un passaggio del suo intervento, abbia illustrato benissimo il concetto. Cioè, non era sbagliato il primo test, era inadeguato rispetto ad un test successivo più sofisticato per scoprire un prodotto di nuova generazione. È la vecchia guerra, lo ripeto, tra guardie e ladri. Gli strumenti dei ladri sono sempre più sofisticati. Le guardie arrivano ovviamente sempre dopo, perché non è la guardia che comincia, è il ladro. No? E fin qua ci siamo. Quindi Rebellin, quindi questo grande mezzofondista marocchino di cui ho dato notizie purtroppo anche nel suo caso qualche minuto fa, chissà quanti altri ancora. Se il CIO ha deciso di congelare e di tenere nei propri laboratori, archivi, non lo so, gli esami sangue e urine per 8 anni dopo, 8 anni, gli 8 anni successivi all'edizione olimpica in questione, beh, insomma, mi pare che questo dica tutto. Scrive Franco Detti da San Vincenzo, appena arrivata questa mail, un commento veloce in merito alla richiesta di privacy degli atleti professionisti. I signori atleti, dal momento che sfruttano la loro celebrità derivante dalle vittorie per accumulare, in maniera peraltro più che legittima, grandi patrimoni in pochi anni, non hanno diritto alla privacy. Non hanno diritto per due motivi, il primo etico, l'altro economico. Quello etico è ovvio e richiama il senso dello sport per crescere della società, eccetera, eccetera. Quello economico rimanda al principio principe del mercato, che è quello della trasparenza e dell'informazione. Io pubblicitario, per fare un esempio, investo milioni per sfruttare l'immagine dell'atleta al fine di promuovere il mio prodotto, e questo risulta essere non un atleta ma solamente un dopato, mandando in fumo il mio investimento. Detto ciò, ben vengano controlli e squalifiche e pesantissime pene. Vito ha chiamato la Lucca, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. Un'informazione, perché poi non si capisce bene, riguardo le misure contro la violenza di stadio, insomma vari tornelli e così via. Non si dovrebbero portare all'interno striscioni se non ignifughi e tante altre cose che comunque in molti stadi ci sono. Io le faccio l'esempio, vivo a Lucca ma sono di Taranto, le faccio un esempio assurdo secondo me, perché sono stati multati delle persone, tanto ci sono tornelli, ci sono biglietti nominali e così via, soltanto perché erano seduti in un altro posto, in uno stadio di 30.000 persone con 1.400 paganti. Caro Vito, se facessimo un libro bianco, ma non un libro, facessimo l'Enciclopedia Britannica bianca a questo punto, di tutte le disfunzioni e se vogliamo anche le assurdità che si sono compiute nel nome dei tornelli, insomma nel nome delle misure antiviolenza di questo infame periodo, credo che appunto non deforesteremmo l'Amazzonia intera. Evitiamolo e invece di prendercela però, pur ovviamente ogni tanto facendo rilevare le disfunzioni, le amenità più grosse, prendiamocela invece con chi ci ha ridotti in questa condizione, prendiamocela con i violenti, prendiamocela con loro, con i ladri, non con le guardie, perché le guardie ogni tanto sbagliano, ma continuiamo a prendercela con i ladri se è possibile e a invocare delle misure più serie, no? E più definitive, anziché questi palliativi e queste tolleranze zero che poi nel tempo si riducono, no? E adesso si stanno riducendo, secondo me in maniera di nuovo assai pericolosa. Sentiamo Vincenzo da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo riprendere il discorso doping in base alla difficoltà della reperibilità di signori atleti. Io posso portare un esempio. Ho parlato col padre di un ragazzo che ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino nel settore nuoto e mi diceva che già da tempo che loro sono reperibili in quanto in pratica devono essere controllati e possono essere dove vogliono, quando arriva il controllo nel giro di un tot tempo devono andare a fare le analisi, però convivono da tempo, ripeto, nuoto senza quei giri di miliardi che può avere tennis, calcio o compagnia bella, tutto lì, dicono che è abbastanza semplice gestire una situazione del genere. Sì, abbastanza, dipende da che vita fa uno, dipende da che livello di professionismo è, e senza contare tutte le considerazioni che stanno a monte e che abbiamo fatto prima con Marco Bellinazzo e che peraltro non sono inedite da questo punto di vista. Poi vi leggo, dopo questo intervallo, vi leggo qualche passo di un'intervista pubblicata dalla Gazzetta Lilian Thuram, che mi pare interessante e significativo davvero a proposito di razzismo. Ripasso di storia, Nicola Filippone. Sembra ieri. 29 aprile 1972. A San Siro, l'Italia di Valcareggi, campione d'Europa in carica e vice campione del mondo, non va oltre un deludente pareggio senza reti contro il Belgio, nell'andata dei quarti di finale del campionato europeo. In campo ci sono 8 undicesimi della squadra che 4 anni prima a Roma aveva battuto la Jugoslavia, aggiudicandosi il titolo continentale. Nella ripresa, Valcareggi sostituisce Domenghini, all'ultima apparizione in azzurro, con il debuttante Causio, giovane ala della Juventus. 2 settimane dopo, a Bruxelles, il Belgio si imporrà per 2-1, estromettendo la nazionale campione in carica dalla fase finale, che si sarebbe disputata proprio in Belgio. Vi avevo promesso la lettura di un'intervista a Lilian Thuram. Sorpreso della Gazzetta dello Sport di stamane. Sorpreso per gli insulti razzisti dei suoi tifosi a Balotelli. Risposta: no, il razzismo esiste nella società e Balotelli è una novità per gli italiani. In che senso? Perché è italiano e nero. Quando giocavo in Italia, molti allenatori e giocatori mi dicevano che la nazionale francese non era vera per via di troppi giocatori neri. I suoi ex colleghi della Juve non hanno preso posizione, è normale. Chi non subisce razzismo tende a non dargli importanza, manca la sensibilità per capire meglio le cose. C'è poi chi non vuole scontri coi tifosi. Invece bisogna sfruttare il proprio status per dire che non si può insultare un giocatore perché è nero. Molti calciatori di colore hanno fatto vincere la Juve. I giocatori dovrebbero spingere i tifosi a non avere paura dell'altro. La Juve ha presentato ricorso per il turno a porte chiuse. Non lo avrei fatto. I dirigenti non possono imbavagliare la gente che va allo stadio, ma un ricorso è come dire che non è successo nulla di grave. Bisognava accettare la squalifica per dissociarsi dai tifosi. Il ricorso come sapete è stato respinto. Un ascoltatore mi chiede che cosa penso delle due giornate di squalifica all'Angella del Chievo. Secondo me sono la metà di quelle che gli toccavano come minimo per la gravità del fallo commesso verso fine partita nei confronti di un giocatore dell'Udinese. Tocca a Giulio dalla provincia di Modena. Buongiorno. Buongiorno Garanzini, salve. Dica. Ascolti, io mi rifaccio al discorso sul calcio inglese e quindi internazionale in generale, in questo senso, specialmente dopo gli anni di squalifica legati alle iselle e quant'altro, il calcio inglese ha avuto anni molto difficili in cui ha dovuto riguadagnarsi una immagine e quindi anche una condizione economica che ora è regina in Europa per qualità tecnica e quant'altro. Però una cosa differenzia oltre a tante altre oggi economiche. E dimentichiamo secondo me che un Ferguson, che da 20 anni ormai è il manager del Manchester United, ha anche avuto stagioni infelici con sconfitte. La differenza è che là, se si perde 2-3 anni in fila, non si viene impiccati o crocifissi, ecco, si lascia il tempo di ragionare, di lavorare, di programmare con una società e quindi con un contesto che ha veramente un lustro per potersi mettere in gioco. Assolutamente, sì. Voglio dire, Ancelotti nei 6 anni di Milan, e sono ormai 4 anni che si dice sempre, quest'anno di più, Ancelotti ciclo finito, ha vinto 2 Champions in 6 anni se non sbaglio, Ferguson ne ha vinte 2 in 20 anni. Mm-hmm. E quindi voglio dire... Sì, ha vinto un sacco di campionati in più, però il suo discorso è verissimo, è sacrosanto. Wenger per esempio adesso viene da un lungo periodo di digiuno, ma hanno investito su Wenger è il loro tecnico in senso britannico, alla Ferguson, cioè tecnico vuol dire che è responsabile di tutto del campo e di quello che accade in campo, ma anche di quello che accade in società, nel senso delle manovre di mercato, degli acquisti, degli investimenti. E nessuno si è sognato di discutere Wenger, che anzi avrebbe forti richieste altrove, a cominciare dal Bayern di Monaco, ma che si sappia non ha nessuna intenzione di muoversi, ed è lì da un sacco di anni. Ho rivisto qualche sera fa una vecchia partita dell'Arsenal e c'era in panchina un Wenger davvero molto, ma molto più giovane, che non ricordavo fosse andato lì a quell'età. Grazie Giulio. Leonardo, provincia di Trapani, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Io la chiamavo in merito all'intervista dell'ingegnere Elkan relativamente ai problemi, sì, di casa Juve. Da questa intervista, secondo lei, cosa viene fuori? Che la Juventus subirà una rivoluzione radicale? No, viene fuori che, insomma, che non ha gradito molto, le ripeto, viene fuori quella bella espressione di calcio sostenibile. Il nostro progetto, lui dice, è quello di un calcio sostenibile, cioè che sostenibile in senso economico, poi se fosse sostenibile anche in senso ecologico sarebbe meglio ancora, bisogna coniugare e tradurre. E poi viene fuori insomma, non voglio dire la voce del padrone, perché mi sembra una voce molto, molto educata, e poi anche per l'età non sarebbe un'espressione felice, ma la voce della proprietà, la voce della proprietà che si fa sentire in un momento in cui tutti indubbiamente hanno un po' troppo parlato. La parte meno convincente, secondo me, è il commento al famoso pranzo tra Blanche e Lippi, quando il Can ha detto: a questo livello di professionismo certi episodi non sono ragioni per non vincere. Beh, è ineccepibile come ragionamento, però è ragionamento di un non addetto ai lavori, nel senso che nel calcio ci sono moltissime cose che apparentemente non dovrebbero incidere, non dovrebbero causare nessuna conseguenza, e invece le causano, e questa credo che sia stata una mossa azzardata. Poi certo non avranno diramato loro, né Lippi né Blanc, le convocazioni alla stampa per farsi beccare, però in realtà sono stati beccati, e il solo fatto di farsi beccare è già una colpa. Questa, sommata alla mossa di riaffidarsi a Cannavaro in futuro, prima da giocatore e poi chissà, beh, insomma, mi pare abbia innescato una serie di malumori e di reazioni a catena in tutta la squadra, nell'allenatore, nell'ambiente, nella tifoseria, e su questo non è ovvio che la proprietà interviene a difesa delle mosse della parte operativa della società, Ma insomma, visto che adesso lecita il mio giudizio è che la Juventus, per costruirsi un futuro che sa molto di passato, ha compromesso il presente, e l'ha compromesso in maniera molto, molto pesante, che si è fatta del male. Ne sono responsabili un po' tutti, direi, anche e come la società. Da Torino, Fernando, buongiorno. Sì, pronto, Garanzini? Dica. Sì, buongiorno. Senta, Garanzini, complimenti innanzitutto. Volevo dirle questo. Io ho un'idea che circa 30 anni che ce l'ho. Le parlo del calcio di rigore e dei falli che avvengono nell'area di rigore. No? Lei è d'accordo con me sul fatto che in area di rigore avvengono falli di diversa entità, di diversa gravità? E poi? Allora, per quale ragione vengono puniti tutti con un'unica pena con il calcio di rigore? È come se io, non lo so, faccio una metafora, non so, rubo una bicchietta, ammazzo tre persone, assalto una banca e vengo condannato, per tutti questi tre reati vengo condannato con la pena della roulette russa. Ecco, faccio una metafora. Sì, prima della metafora il ragionamento era meglio, la metafora l'ha un po' rovinato, poi andiamo avanti. Era per fare un esempio, sì, Garantini, le chiedo sì, scusa. Sì, no, per caso, carità. Volevo dire, non sarebbe giusto anche per togliere il potere discrezionale agli arbitri differenziare le pene nell'area di rigore? Faccio un esempio: i falli più eclatanti, più chiari, chiaramente calcio di rigore normalmente, oppure per i falli meno gravi, meno eclatanti, non so, la spintarella, cioè dare una pena differenziata, meno grave, non so, faccio un esempio che può essere assurdo, non so, il calcio di rigore, non so, a 13 metri o un altro tipo di punizione, cioè sì, graduare le pene, dei delitti delle pene. Fernando, grazie. Una volta c'era, anzi c'è ancora nel regolamento, il calcio a due in area. Calcio a due in area è una punizione diversa, viene data in genere per l'ostruzione, ma in realtà veniva data, è quasi stato abolito, cioè o è rigore o è no, si è andati verso una semplificazione. Io non so se, non so dire se se sia stata una scelta felice o meno. Quello che so è che Ottavio da Bologna non fa in tempo a entrare in onda, perché questa riforma dei delitti e delle pene, una roba da Cesare Beccaria, suggeritaci dal nostro ascoltatore da Torino, insomma, ci ha portato via il resto del tempo. Sicché grazie a Filippo Aureggi in regia, grazie a Flavio Suardi in redazione, ci sentiamo regolarmente domani, sentite il giornale radio.